L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un canapaio. Tante economie, economie che si reinventano nell'emergenza. Ancora ben ritrovati da Anna Migliorati. Anche questa settimana faremo il punto sulla nostra spesa, che come sempre ci racconta anche come ci sentiamo. Prima però la nostra storia. Un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su, era bello. Anche questa ve l'abbiamo raccontata nei mesi scorsi, la silver economy, l'economia che ruota attorno alla terza età e come per altre economie è ora in prima linea. Allora ringrazio, ritroviamo Mariuccia Rossini, presidente Silver Economy Network. Buongiorno a tutti. Ci sono anche le strutture per anziani tra le tante attività essenziali che stanno continuando a reggere in queste settimane. Un'intera filiera in qualche modo che si è mobilitata. Sì, è una filiera che si è mobilitata e sta mettendo in campo molte più risorse rispetto al tempo passato, perché nel nostro obiettivo è quello di tutelare i nostri pazienti e il nostro personale. Nelle case di riposo oggi sono ricoverati pazienti fragili, per cui diciamo sono le persone che più devono essere protette. Abbiamo messo in atto tutta una riduzione, un blocco delle visite, il lavaggio delle mani prima dell'ingresso in strutture, la presa delle temperature con termoscan a chiunque entrasse, il registro delle visite, la sospensione del personale in servizio al minimo segnale di un raffreddore, della temperatura, di un aumento della temperatura. Sicuramente in Italia non sono successe quelle tragedie come abbiamo visto in Spagna, dove le case di riposo sono state abbandonate dal personale e i vigili del fuoco hanno trovato delle persone sole, abbandonate, morte nei letti. Ha retto la struttura non solo dal punto di vista logistico, anche della, quindi anche la tenuta umana, possiamo dire. Ma sicuramente noi dovremo sempre ringraziare tutto il nostro personale a qualsiasi livello, nessun turno è mai stato scoperto, anzi abbiamo implementato tutte le attività perché appunto per non far sentire i pazienti soli, per sconfiggere la solitudine, abbiamo implementato i servizi di videochiamata nelle strutture con i parenti in modo che i pazienti si possano sentire vicini alle famiglie. Ecco, c'è anche tutta una parte della filiera che si occupa dei più anziani, che si occupa anche dell'assistenza a casa. Anche qui è stato moltiplicato lo sforzo. Abbiamo dovuto rimodulare tutte le attività. Purtroppo devo dire che in alcune zone quando si sono aperti i concorsi pubblici per infermieri, molti infermieri che lavoravano in domicilio hanno preferito andare negli ospedali, il personale infermieristico è quello in questo momento un po' più carente. E anche il vostro però è un settore cruciale, perché soprattutto data l'età delle persone che assistete sono quelle più fragili, più in prima linea. Assolutamente. Grazie allora per lo sforzo che state facendo. Grazie per essere stata con noi. Grazie a tutti, buongiorno. La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Tante le economie che si reinventano in prima linea e non solo, tante le storie, e allora ne abbiamo raccolte alcune. Gianluca Manitto, Epicura, il primo poliambulatorio digitale in Italia. Per il mestiere che facciamo siamo una delle parti importanti del sistema che deve continuare a girare. Quello che abbiamo fatto è spostare tutto il team da remoto e attivare velocemente un servizio di consulenza telefonica e videoconsulto per tutte le professioni che lo permettono. Quindi ad oggi riusciamo a offrire consulti veterinari, pediatrici, medici, infermieristici, psicologici e nutrizionistici. Sono Diego Pelle e sono il CEO di Diretto.it. Diretto.it è una piattaforma che permetteva ai ristoratori di acquistare in un click ciò che gli occorreva. Ad oggi abbiamo messo a disposizione dei clienti privati in questa emergenza tutti i prodotti di eccellenza dei ristoratori. Quindi abbiamo cambiato completamente le porzioni e portiamo la carne, il pesce, gli alimentari, il caseario direttamente a casa. Nonni Connessi è un progetto dell'Università Bicocca e consiste nella realizzazione di una serie di video tutorial che sono pensati proprio per gli anziani e si pongono come obiettivo quello di insegnare loro l'utilizzo di WhatsApp. È un'idea di Daniele Zaccaria, il progetto è stato realizzato in collaborazione con Doro e i video sono riperibili sul sito di Unimib all'indirizzo www.unimib.it. /nonni-connessi. Noi di Acciofai ci occupiamo di consegnare prodotti dalla Cina con il metodo del dropshipping, ovvero inviandoli direttamente dal magazzino del fornitore al cliente finale. Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 ci siamo concentrati sull'importazione di forniture sanitarie, fornendo oltre 400.000 mascherine alla Protezione Civile di Roma, alla Polizia di Roma Capitale. Inoltre abbiamo tantissimo altro materiale già in arrivo nei prossimi giorni, quali mascherine, tute, visiere, occhiali e guanti. E poi ci sono piattaforme di noleggio con conducente che si sono reinventate ed accompagnano gli anziani a fare la spesa. Io resto a casa Delivery è invece un nuovo sito che prova a rilanciare la spesa stando in casa in Lombardia. E permettetemi una curiosità, migliaia di contatti ha avuto un sito web che propone, permettiamoci un mezzo sorriso, il calcolatore di carta igienica. Indica quanto durerà la fornitura in quarantena contro le scorte eccessive. Piccole cose crescono. E allora, cosa compriamo? Chi siamo? Come ci sentiamo? Nel carrello della spesa ci sono anche le nostre emozioni e le nostre paure. Torna con noi Marco Colombo di Iris, società di analisi di mercato. Ben ritrovato anche questa settimana. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Novità di questa settimana è che forse finalmente abbiamo smesso di preoccuparci quantomeno della spesa. Sono altre le cose che ci preoccupano di più. Perché la preoccupazione principale degli italiani è per gran parte l'economia, ancora prima della salute, e oltre a questo l'accesso ai servizi sanitari. Infatti si è verificato in queste settimane un aumento della fiducia nella rete distributiva e negli operatori della grande distribuzione. Solo l'11% degli italiani temono di non avere disponibilità di prodotti, solo il 19% pensa che ci possa essere un impatto sui prezzi. Perché il cambiamento che c'è stato nelle abitudini d'acquisto di queste settimane ha comunque dato un senso di certezza nei consumatori italiani. Possono comunque continuare a fare la spesa e quello non è un'area che vi dà preoccupazione. Spesa che però è definitivamente cambiata, dicono i dati, la svolta ormai è totale. Sì, da un lato la convinzione che i prodotti sono sugli scaffali e ci saranno anche nel futuro. Dall'altra, un processo di acquisto che è significativamente cambiato a causa del contingentamento degli ingressi. Minori visite, carrelli più grandi, attenzione al mix di prodotti, tipicamente di base, farina, uova, biscotti, caffè. Dall'altra parte, lo abbiamo detto, i negozi di vicinato, i discount e i supermercati continuano a crescere in modo importante. I negozi di vicinato, molti ascoltatori ci hanno scritto: non è vero, sono chiusi. No, i piccoli, soprattutto nei piccoli centri, in realtà sono un pilastro in questo momento. Sono ciò che permette alle persone, soprattutto le persone anziane che non possono permettersi o di prendere l'automobile o di spostarsi molto, di continuare a fare la spesa. Il 65% ha proprio cambiato abitudini anche d'acquisto, quindi negozi più piccoli. Negozi più piccoli, negozi più vicini. Fare la coda è diventata quasi un'abitudine, mentre prima la nostra insofferenza verso l'attesa era quasi genetica. Oggi, girando per le strade della nostra città, si vedono persone tranquillamente in fila che sopportano e si sono adattate a questa nuova modalità di fare acquisti. Più di 6 italiani su 10 che hanno cambiato il loro stile di vita negli acquisti, quindi nel carrello, ci indica che veramente a questo punto la svolta c'è stata. Sì, sì, è proprio così. Dall'altra parte c'è stata una forzatura, ovvero la chiusura di ipermercati la domenica, e dall'altra parte la riduzione dell'accesso a negozi come gli specializzati in prodotti per la casa della persona, sta vedendo queste due tipologie di negozi soffrire molto. Magari sarà su questi che ci concentreremo allora la prossima settimana. Tanto grazie ancora per il nostro bollettino della spesa. E voi buona settimana. E ci ritrovate sempre qui anche la prossima settimana per raccontarvi quest'Italia come non l'avevamo mai vista. Economia delle piccole cose, @radio24.it per scriverci, podcast sul sito di Radio 24. Un saluto ancora, un buon sabato da Anna Migliorati.